Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21, passate da 2 minuti. Buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera da questa voce che si chiama Agostino Spolaore, con un grosso bacio veramente a tutti voi all'ascolto di questa emittente che in questo momento diventa la vostra preferita. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici in studio è lo 049 875 6423. Invece, se volete mandare i vostri sms, il 346 23 20 033. In questa sera ovviamente potete mandarli per salutare, fare qualche domanda, chiedere come sta, che ne so, quello che volete voi a questa splendida voce che intanto sentiamo se Maurizio funziona. Mi senti adesso? Sì, adesso ti sento. Perfetto. Abbiamo cambiato microfono e tutto sistemato. Adesso tutto a posto, perfetto. Non c'è problema. Allora, dicevo, questa splendida voce che porta un nome, si chiama Sara Sol. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Sara Sol. Benvenuta. Grazie per avermi invitato. E ovviamente c'è il gradito ritorno di un chitarrista che già ci ha fatto compagnia un'altra serata con Eva Simontacchi, un chitarrista straordinario, che si chiama Daniele. Ciao Agostino, ciao Maurizio, ciao Daniele, a tutti. Ciao. Daniele Boladei. Come va? Bene? Tutto a posto, grazie. Avete fatto un buon viaggio, sì. Ottimo viaggio, grazie. Perfetto, benissimo. Musicalmente il viaggio si supera. Musicalmente il viaggio va sempre super bene, va sempre avanti. Esattamente. Ok, benissimo. Come ti sei creata musicalmente? Come hai cominciato? Hai cominciato giovanissima, che sei andato anche hai fatto le selezioni dello Zecchino d'Oro. Sì, le selezioni dello Zecchino d'Oro. La vita nel coro, perché ero timidissima, quindi non potevo cantare da sola, e perché mi piaceva cantare. Praticamente mia madre dice che veramente dopo i primi pianti a 6 mesi già canticchiavo. Non camminavo, non parlavo né niente, però già canticchiavo. Allora mi ha voluto accompagnare alle selezioni, poi mi hanno preso, solo non volevo cantare da sola, quindi in coro. Giustamente, poi hai cominciato partendo da questo, poi sei andata a fare anche il piano bar, questo è importante, sì, hai fatto una grande scuola di piano bar. Sì, e continuo anche a fare anche questo tipo di serate, perché penso sia importante anche cantare un po' di tutto, proprio per imparare a conoscere quello che ci piace di più, quello che è la nostra musica. Esattamente. Quindi questo è importantissimo, perché quando si inizia non si sa da che parte andare. E poi piano bar, poi hai guidato, hai partecipato a delle cover band anche. Sì, tantissime. Tra l'altro una qui a Vicenza. Bene. Che era legata a un gruppo che si chiama Neruda, e noi eravamo di Andra 14. Ah, però. Quindi questo era un po' di tempo, circa 10 anni fa, nel 2000 più, 11 anni. Beh, tu sei giovanissima. E però non avevo ancora la patente, però venivo a Vicenza in treno, era bellissimo. E poi ritornavo il giorno dopo a casa. Quindi. Come band di cosa? Sasso? Ma facevamo da Pink, le ultime volte Pink, poi facevamo, non so, You Shook Me All Night Long, piuttosto che, adesso mi vengono più in mente le canzoni, anni 70, Gloria Gaynor, tutto quello che faceva ballare fa ballare ancora nei locali. Quindi. Che fa muovere, chiaramente, quindi sì. Ti sei formata sì, progressivamente così, strade, sì. Ma hai avuto anche l'idea di fare l'autrice, però, sì. Di tuoi pezzi, sì. Perché una cosa fare le cover band, una cosa cantare per gli altri, mentre cantare per se stessa. Perché penso che dire le cose che pensi sia molto più importante. Oltre che importante, anche non puoi essere te stessa se non dici quello che secondo me hai scritto. Cioè, ci sono interpreti bravissimi, però quando canti le tue cose dai proprio il 100%. In una cover puoi dare il 90%, l'80%. Mi piace pensarla così. Daniele, se devo metterci la faccia, voglio, certo, metterla con le mie parole. Daniele, cosa dici? Una dimensione diversa fra l'autrice oltre che la cantante? Beh, assolutamente sì, vabbè, anch'io sto registrando il mio album, e quindi vabbè, a me piace suonare i brani degli altri, mi piace molto poterli reinterpretare, riarrangiare, succede continuamente con Sara, però poi quando fai qualcosa di tuo è un'altra cosa, è un piacere, perché finalmente dici ho filtrato tutto quello che ho ascoltato, quello che sono i miei gusti, e dopo viene fuori. Bello brutto, poi lo giudicano gli altri, infatti, però dici veramente la tua. Esattamente. Ti aiuta a crescere, perché poi uno sente un brano e ti dice ma non mi è piaciuto molto, un altro è entusiasta. Sì, poi esatto, poi vedi anche nelle persone quello che tu poi fai con le cover, no? Certo. Cioè gli altri ti dicono esattamente le cose che tu pensi di alcune cover, allora inizi a capire un po' anche, diciamo, come si muove il pensiero musicale. Ecco, chiaramente sì. E poi ricordiamo anche che, forse Maurizio non lo sai, ma la signorina qui presente sì? insegna canto. Ah, questo non lo sapevo. Questo non l'hai trovato in internet. No, questo non lo sapevo. L'ho spulciato, ma quello non l'ho trovato. Di lavoro ho la fortuna di fare musica tutto il giorno, quindi insegno e poi faccio le serate con quasi sempre con Daniele, con DJ, con varie situazioni. Sì, sì. Però è bello insegnare. Mi piace. Anche lì è un'emozione diversa. È un'emozione diversa perché cerchi di trasmettere qualcosa agli altri. Di solito trasmetti le cose più che altro tecniche, non quelle emotive. E quando sei salita sul palco di Sanremo con Miva, cosa hai trasmesso? Ho pensato, adesso cado. L'unica cosa che ho pensato, perché c'era il pavimento, veramente, ve lo giuro, che rifletteva una luce strana. E siccome noi dovevamo partire con gli occhi giù, ho pensato adesso, con i tacchi tipo 12, ho pensato adesso cado qua. E così mi ricorderanno per sempre la Jalapas Band come la corista che è caduta. Ho detto, speriamo di no. L'unica cosa che ho pensato è stata quella. Poi mi sono emozionata quando siamo scesi nella sala stampa e c'era il video. Allora ci siamo... rivisti, abbiamo capito veramente cosa, cioè, dove eravamo andati, però è molto emozionante, sì, quello sì. Poi vabbè, le prove sono state, sono musicisti straordinari, cantanti tutti bravi, quindi insomma una bella esperienza, bella. E Milva com'è? Brava, è il mito che tutti raccontano, sì, è proprio, secondo me è una delle ultime dive, proprio in tutti i sensi. Perché adesso magari non si è più così, prima sì, è proprio una diva. È la pantera di Goro. Lui. Sì, è proprio una diva in tutto e per tutto, col bene e il male. Certo. Quindi sì. Proprio... Anche se hai fatto un percorso abbastanza difficile. Sì, poi anche in tanto teatro, tante cose. All'estero è stata molto apprezzata, più forse che qui in Italia, certo, in Germania, così. Quindi no, molto, è stata una bella esperienza. Poi l'autore della canzone era Giorgio Faletti, appunto, che io stimo tantissimo, quindi è stata una bella emozione. A dirigere l'orchestra Lucio Fabris, quindi... C'era tutto insieme, i miti proprio. Infatti, io ero una delle più piccole, come al solito, guardavo. Ma come ti hanno pescato? Sempre, allora, ero andato a un seminario di gospel alla B-Voice, che è una scuola. Ah, perché ricordiamo, scusa se ti interrompo, Sara, ricordiamo che lei ama il gospel. Sì, amo tantissimo. Esatto. E fa anche il gospel. No, allora. ho fatto, adesso non più, però sì, mi piaceva. E mi piace ancora ascoltarlo, non lo canto più perché penso che, insomma, in chiesa bisogna andare anche per altri motivi. E siccome andavo solo per cantare non andava più bene, non ero in pace con me stessa, così, ok. E niente, ho fatto questo seminario, l'insegnante si ricordava di me, mi ha richiamato per le selezioni e poi mi hanno scelto. E mi hanno fatto cambiare il colore dei capelli perché non ci potevano essere rosse, quindi ho dovuto tingermi di nero, che ero disperata. Però vabbè, però ho detto, figurati, sì, il giorno dopo sono tornata nera, subito 2 ore dopo ero già lì con lo shampoo fatto, precisa. Ho detto, sì, vengo subito. Ma infatti, ti confesso che io ho cercato nel... Hai fatto fatica a capire chi ero. Infatti io poi ho scritto la Sara Sol nera sotto, perché sennò uno non capiva. Sì, quei capelli neri. Infatti non si poteva, non c'era nessun'altra rossa, quindi ho detto, vabbè, ok, cambiamo, via. Allora, questa è la voce di Sara Sol che stiamo cercando di, sì, insomma, di conoscere un po' di più, di farvi conoscere questa voce, che poi tra l'altro è una splendida voce. E io direi di far ascoltare subito qualcosina, Maurizio, che ne dici? Sì, esattamente. Una cosa solo, Sara. Sì. Sara Sol, hai un titolo molto alla Wettmüller, il disco ha un titolo alla Wettmüller, non so se sei d'accordo, Daniel, il primo disco, che si parla, sì, di disco di esordi. Perché, allora, era la frase, secondo me, che racchiudeva, cioè, questa frase era tutto lo stato d'animo di quel periodo, una frase sola, cioè, la mia vita andava così. Quindi nel 2008 la mia vita andava esattamente così. Quindi siete distratta sull'ora del mondo. Aspettandomi qualcosa. Adesso è un po' diverso, però allora era così. E quindi io ho voluto dare questo titolo all'album. Tu sei giovane, neppure Agostino lo sa, Daniele è giovane. Molti anni fa, su Ciao 2001, che era un manifesto, era l'unico settimanale musicale che c'era, c'era una rubrica che si chiamava Fermata il mondo, voglio scendere. Ecco. Ecco, si parla di tanti anni fa, sì. E la scriveva qualche volta anche Edoardo Bennato. Ah, ecco, questa non lo sapevo, non lo sapevo. Si parla di molti anni fa, Agostino, tu non ti ricordi. Non importa. Ok. Sentiamo qualcosa allora, cosa dici? Sì, cosa hai scelto, Sara? Allora, come primo pezzo live... No. Dal disco. No, va bene, dal disco vorrei farvi ascoltare Vita. Okay, che è un brano fatto come il featuring è con Sierra Harris, che è un ragazzo texano che ho incontrato tramite MySpace, che è sempre è un sito molto utile per le collaborazioni musicali, e quindi vorrei farvi sentire questo pezzo che parla appunto della... Allora, è una specie di canzone hip hop, però io non mi considero una rapper, quindi non mi interessa neanche niente della cultura hip hop italiana, non seguo questo filone. E parla appunto della vita di una ventenne che pensa di aver capito tutto, invece non è proprio così. Okay. Ricordiamo che Sara varia molto in questo disco, quindi si passa dall'hip hop al rock al soft. Intanto ci ascoltiamo questo. Va bene. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Credimi, si perde in questi giri, c'è chi fa dei brutti tiri, soffia forte sulle porte, chi ha battuto troppe volte, sbaglia di quei cardini, ora tu puoi dubitare, non lo sai se ti terranno su. Stare stretti a un passo dalla morte è un'illusione troppo alta, c'è il rischio poi di perdere e salta. Forse non è troppo tardi per poter riprendere ciò che tu stai lasciando giù. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Compagnie che fanno lotte di sopravvivenza, il gruppo cresce solamente il rischio di un contagio. Adagio, adagio, pensa quando avrai bisogno di un lavoro, pensa lì non ci saranno loro. Quelli che tu chiami amici e non capisci che gli piaci solo perché tu fai tutto e taci. Ma quando avrai buttato la tua vita al muro, sarai da solo con le ceneri del tuo futuro. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Come non sai più smettere, andar via di lì, tu che dicevi un gioco non ha obblighi, so che se vuoi tu puoi tornare come sei, allora dai ascoltami poi capirai. Non sarai mai diverso solo perché ti fai, non sarà mai successo se mai proverai, perché non piove mai in eterno e tu lo sai. Cartelloni e striscioni non bastano ancora per fermare migliaia e migliaia di coglioni che giocano, ridono e perdono. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Get moving, things are better with effort. Rough steel, enough pills to kill the thrills. But if you had it all, it wouldn't mean the same to try and achieve. And when I look up at the sky, I don't have to try to believe. All my fears are making lies, but not the way that they should. Get your own and get at home and get grown, and it's good to bring a child in this world and give it all that it's due. Nothing's ideal, but I will carry it through. The upper half is burning much to fry the memories of. Disappointment from the truth and too much pressure is due. But I refuse to coincide with the dark half of this world. Giving a gift of light that needs to shine, the planet is mine. Get on the wagon, it ain't about what you have it. It ain't about your spinners or the walls that you been tagging. Pursuit of something greater, belief in something better. The path a bit more different to me, but then you win in the end. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti tu ti perderai. Vita che non sai, vita che non vuoi, vita va vent'anni, come fai a sapere dove vai? Cerchi quel che hai, in tutto quel che sei, guarda attentamente altrimenti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sempre Blu Radio Veneto, sempre la voce di Agostino Spolaore, sempre la voce di Maurizio Calzavara, sempre la voce, anzi la splendida voce di Sara Sol con Daniele Bonadei. Vi ricordo il nostro sito, ripeto, www.bluradioveneto.it, i nostri numeri telefonici, allora per telefonare in studio 049-875-6423. Se invece volete mandare qualche sms a Sara Sol e salutarla, fare quello che volete, insomma vi ricordo il 346-23-20-033. Se ci volete ascoltare in streaming, che prima mi sono dimenticato di dirvi, basta andare semplicemente nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, c'è un rettangolino rosa con scritto streaming e sotto c'è una freccia nera piccolina, cliccando lì si sente la radio 24 ore su 24. Oppure andando sempre comunque nel nostro sito, oppure cercando anche tramite Facebook il link dell'evento, nella recensione, nella pagina finale, nella parte finale, scusate, della recensione, c'è scritto streaming audio, cliccando lì si sente la radio, ovviamente si sente l'intervista. E in più abbiamo anche le webcam che sono attive in questo momento. Prima c'è stato qualche problema di connessione per qualche istante, ma adesso ci sono. Vi ricordo la diretta video, quindi andando semplicemente in diretta rockway.tk, appunto restando nella recensione, cliccando su diretta streaming video, potete vedere Sara, Daniele e anche Maurizio, ovviamente, se si fa vedere qualche volta. Forse non è un bel vedere, insomma, non è proprio un bel vedere, ma insomma, meglio la Sara e Daniele. Meglio Sara, meglio Sara. Meglio Sara, meglio Sara, assolutamente Sara. A proposito, musicalmente, sì, mi spiegavo un momento, tu a microfono spento, però adesso lo possiamo dire a microfono, sì, aperto. Sì. Com'è nato questo pezzo musicalmente? Com'è stato il contributo tra il DJ e te? Allora, questo pezzo è uno dei pochi che è nata da un'idea proprio di Sirrà, che ha mandato questo campione, che è un texano DJ, esatto, texano. È un texano DJ ma anche MC, le cose principali le scrive, canta eccetera, ha fatto questo beat e mi ha detto prova a rappare in italiano, visto che sapeva che mi piaceva, e ho detto ma perché no. E in quel periodo purtroppo era morto il fratello di una mia amica per overdose, ho pensato a questo, e lei era, e per fortuna non è più, anche lei messa non molto bene, e mi chiedevo appunto come era possibile che ancora in questi anni si potesse morire di una cosa, certo, stupida, perché è stupida, chiaramente una scelta stupida, quindi ero arrabbiata perché stavo cambiando casa, insomma un po' di robe. Ho scritto questo brano, poi gliel'ho rimandata, noi registriamo sempre qui in Italia, sì, a Milano. Rimandiamo il pezzo, l'hanno diciamo aggiustato per come poteva essere la parte musicale, quindi ha aggiustato gli strumenti, i suoni eccetera, l'ha rimandato a Milano, mixa Marco D'Agostino, che ha lavorato anche per i Rosso Mazzotti, Renga. Sì, ho capito. Quindi il pezzo è venuto fuori in questa maniera. Sì, sì, sì, questo sì. Altri brani li scriviamo chitarra e pianoforte io e Juan MC, li mandiamo e poi loro costruiscono intorno proprio tutto. Invece qui è partito proprio dal campione, non avendo quasi per niente melodia. Sono quasi tutte parole, insomma, siamo partiti dal campione e tornati indietro, poi l'ha mandato. Giustamente tu mi facevi notare che dal vivo questo è impossibile. Chitarra e voce è tosta. Impossibile, sì, è un po' tosta. Sì. Un po' tosta. Infatti la ripropongo nei locali col DJ o comunque nelle situazioni un po' più hip hop, ecco questo. Ecco. Sì. Anche se non è proprio la tua situazione questa qua. Ma mi piace. Lo metti di fianco. Sì, mi piace. Lo tocchi, mi piace, leggermente, sì, però non poi è... ascolto tantissimo hip hop anche italiano. E ci sono veramente degli esponenti della scena che secondo me meritano e non sono ancora usciti, ma spero presto usciranno, con dei testi molto impegnati, e mi piace proprio. Benissimo. Sì, abbiamo parlato di questo pezzo, una traccia importante. Musicalmente l'album come si sviluppa? Parliamo del vecchio album, poi sì, l'album nuovo fra poco uscirà. Sì. Musicalmente parte da un primo pezzo, la title, sì, track, che è un pezzo, è un singolo ben fatto, decisamente diverso rispetto all'andamento degli altri pezzi. Sì. Sì, perché è nato in un primo, cioè c'è stata proprio differenza, nel senso che abbiamo aspettato qualche mese prima di scrivere poi gli altri. Ok, quindi hanno sviluppato prima Siedo Distratta. Abbiamo visto che andava, che girava la collaborazione noi loro e siamo andati avanti. Ho capito. Quindi poi abbiamo preso strade diverse per gli altri brani, però è stato proprio il primissimo. Benissimo. Cosa dici, Agostino? Su 21 io voglio sentire. Sentiamo qualcosa, là sì, sarà sì, solo. Sì. Sì. Cosa ci fai? Io farei Cose, che è il pezzo acustico, così partiamo. Quello con il brano. Mi piace proprio il brano acustico, sì. Come è nata questa ispirazione di Cose? Allora, Cose è nata proprio con la chitarra, così come la vedete adesso. Poi l'abbiamo mandata in America e loro hanno diciamo fatto tutto la strumentale. Però io poi ho voluto tenere nel disco anche una versione acustica per come era nata, perché loro l'hanno stravolta un po'. Mi piaceva, ma mi piaceva anche questa versione, ho voluto tenerla così. Allora, quindi ci ascoltiamo, sì, questo, grazie, pezzo, Sara Soul con Cose. C'è però un problema, scusate, c'è un problema audio perché sento sento la latenza. Cioè? Sento lui dopo che ha suonato. Ah, giusto? Io sono a posto proprio qui, eh. Anche tu? Eh sì, sento tutto doppio in cuffia. Quindi sì, è difficile cantare, cioè, ci facciamo i corretti certo. Adesso. facciamo ascoltare qualcosa dal disco. Dal disco allora, sì. Ok. Allora, cosa ci facciamo ascoltare? Facciamo ascoltare la traccia con Paolo Barillari. Ok. Vabbè. Unici. Scoprire l'anima da specialisti, ci fanno controllare il cuore da questi analisti, che decidono dove, quando e di cosa parlare. Spontaneamente certo, perché è più facile eseguire. Basterebbe solo smettere di inventare balle, credere a un mondo fatto di bolle, che potrebbero scoppiare e farci cadere per terra, ributtandoci di nuovo in guerra. Indipendentemente dalla corrente, ho qualche cosa di importante da dire. Lo voglio tirar fuori anche se non so ancora se son pronta a stare a sentire. Come si fa a stare unici vivendo accanto ai propri simili? Dove si può comprare un alibi per rifugiarsi in spazi liberi? Non è capitato ultimamente nulla di vero, non ho un proposito, uno solo, integro intero. Contiamo i soldi, gli sguardi, i successi, contiamo in base all'opinione che gli altri hanno di noi stessi. Per questa sera non ho trovato nulla nel mio armadio che sia adeguato al clima di questo stadio. Gremito di gente che fa di tutto per sentirsi diversa e si ritrova poi sola e depressa. Indipendentemente dalla gente, ho qualche cosa di importante da fare. È tempo che io trovi nella forza cercare la strada per arrivare. Come si fa? Indipendentemente dalla corrente, ho qualche cosa di importante da dire. Lo voglio tirar fuori ancora, voglio dirlo a te che sai davvero ascoltare. Come si fa? Ho sognato una fila di scarpe da ginnastica d'argento, una fila di pantaloni a zampe e magliette colorate, di frasi, di discorsi sulla prossima birra, sull'ultimo locale, sul nuovo happy hour. Ma non avevo paura. Ho sognato un urlo, un grido di lotta, di rivoluzione. L'ho visto uscire da quelle bocche impastate di silenzio, di frasi già dette. Ho visto una rabbia implodere come fosse un'attesa. Ma non avevo paura. Ho sognato cortei al sabato mattina, ho sognato picchetti e kefie, ho sognato sostanze ed un bellissimo senso di trasgressione. Ma non avevo paura. Poi ad un certo punto si è spalancata una porta sul retro di ogni nostra fantasia ed un uomo che non riuscivo a vedere ci ha gridato il suo permesso. Era il nostro momento, potevamo finalmente vedere in faccia il nemico. Ma non avevo paura. Mentre stavo per entrare, passare attraverso quella porta insieme a tutti gli altri, mi sono svegliato all'improvviso. Ho acceso la luce sul comodino e ho visto il mio volto riflesso nello specchio in camera mia. E allora sì che ho avuto paura. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa era una canzone, Sara, cantata con un personaggio che noi abbiamo avuto modo di conoscere qui a Padova. Sì. Con il musical. Sì, We Will Rock You. Roberto Paolo. Bravissimo, io l'ho incontrato in sala prove, come nascono molte collaborazioni. Sì. Era in studio a registrare un suo progetto. Sì. Io l'ho sentito, scrive dei testi bellissimi. Secondo me, gli ho chiesto se voleva fare un brano. Con te. Un brano appunto nel disco. Lui ha scelto questa canzone che parlava appunto dell'unicità dell'essere umano. Certo. E ha fatto il finale. Magari ci sta ascoltando, lo vogliamo salutare. Sì, ciao Paolo. Ciao Paolo. Non so se so che è ripartito, quindi non so dove sia in questo, sempre con la tournée del We Will Rock You, quindi non so se è a Milano. Paolo, ci sei? Ma io ci sono, tu voi cosa dite? Oh, che bella sorpresa. Come stai? Beh, ci mancherebbe, mi dici che mi ti intervistano in questa radio, ti intervistano i nostri amici, quindi ci mancherebbe che non ero presente. Che bella canzone, la riascolto sempre volentieri questa canzone, un bellissimo ricordo. Bene, è bella anche perché ci sei stato tu. Ah beh, ma ci mancherebbe. Io ho fatto, guarda, io si dico sempre, quel pezzo lì finale è stato molto facile da scrivere, perché quella canzone lì ti dà un sacco di spunti di ispirazione, un testo talmente bello che ti viene voglia di continuarlo, di proseguirlo in qualche modo, chiaramente in un modo diverso da quello che hai tu, perché abbiamo due modi diversissimi di scrivere, però mi pare che sia venuta una bella sinergia, no? In questo pezzo qua non sente il tempo che ha, e è ancora molto bello da sentire e da ascoltare, non trovi? Sì, vabbè, è vero. Allora, visto che siamo in comunicazione telefonica, radiofonica, lasciamo lavorare il nostro speaker, ma no, ma poi... fare qualche domanda. No, Paolo, ma mi fa piacere se tu hai questo dialogo con Sara. No, sta diventando una telefonata, posso che le chiedo quando ci vediamo, quando andiamo a bere una cosa insieme, non so. No, raccontaci un po' di questo connubio che avete fatto in questa canzone, come è nato, certo. Ma lo stava dicendo lei prima, sì. in radio, pochi istanti fa, ci siamo conosciuti in studio, io stavo lavorando a un progetto che... io sono molto testone, quindi non abbandono. Bravo. È un progetto di un musical che si chiama Diglielo a Tutti, ed è un musical inedito, un musical che parla della pace. E tutti mi prendevano in giro perché dicevano un musical che ha poca attualità, perché è stato scritto nel 1936 da Irving Shaw, il testo da cui è tratto questo musical. E io sostenevo che comunque, purtroppo, per una ragione o per l'altra, il tema della pace sarebbe stato sempre di grandissima attualità nel mondo. Tutti quelli che mi prendevano per i fondelli, adesso, visto quello che sta succedendo in Africa, dovrebbero un attimo rivedere le loro posizioni, credo. Il musical è sempre lì, c'è un inedito, c'è un inno alla pace in chiave musical che aspetta solo di essere prodotto. Io lancio l'appello a qualche produttore in ascolto, cioè, c'è un bravo. Inedito, invece di rifare sempre le stesse cose, cominciate a produrre musical nuovi, perché poi non vi dovete lamentare se la gente non viene più a teatro, ecco, questo è una frecciatina a tante persone che producono musical in Italia. Non sto parlando della nostra produzione, a cui invece faccio grandi complimenti, perché Claudio Trotta della Barley Arts è una persona invece che ha grandissimo coraggio e che punta su delle produzioni che hanno una grandissima forza invece dal punto di vista della denuncia sociale. Lo stesso We Will Rock You parla del trionfo dell'anticultura e del rischio della perdita del valore della cultura musicale, quindi diciamo che scagioniamo Claudio Trotta da questa mia accusa sicuramente, ecco. Pronto? Sì, noi ti abbiamo visto, non so, l'hai visto anche te, Sara? Sì, ho visto la prima io. Hai visto scorso, la prima, sì, noi sì. Abbiamo visto recentemente qua a Padova, hai fatto una performance da bride strepitosa. Sì, e io non l'avevo riconosciuto, ho detto, ma quale sarà? Poi ho capito che era. Hai fatto una performance incredibile. Diciamo che è un musical che ti dà una spinta eccezionale, anche solo il fatto, al di là della tematica di cui ho parlato prima, che è una tematica importante, ci si sente importante, chiunque sia musicista dal punto di vista sociale sente una grandissima responsabilità a cantare il rischio del trionfo dell'anticultura. Ah, ok. E dall'altra parte poi ci sono le canzoni dei Queen che ti danno una carica incredibile, quindi non è poi così difficile fare delle performance al 1000% di energia con un musical del genere. E una cosa voglio chiederti, ci sarà un posto anche per Sara per il tuo musical? Ecco, allora, guarda, io ho conosciuto Sara, io ho fatto dei casting, tra l'altro lunghissimi, di mesi e mesi per realizzare un disco di questo musical che c'è, che suona anche molto bene, perché è stato prodotto in 6 mesi di lavoro e hanno lavorato un sacco di star del musical italiano, ci ha lavorato Mattia Inverni di Notre Dame, ha lavorato Gio Tortorelli che ha lavorato nel Dracula in Peter Pan, ha lavorato Alessandro Salvatori che saluto, anche lui un grandissimo artista, una star del musical, Alice Frigerio, insomma un sacco di performer. Io Sara l'ho conosciuta quando stavo chiudendo i mixaggi e mi sono morso le mani perché avrebbe potuto fare un sacco di ruoli in questo spettacolo, quindi non si sa mai che nel momento in cui verrà messo in scena lo spazio che non ha avuto nel disco lo possa avere. Sempre dopo io. Lo so, Sara, guarda, sei arrivata veramente con qualche mese di ritardo sulla cosa, se no una voce anche nel disco l'avresti avuta, sì, senz'altro, ci mancherebbe. Dimmi tutto. Eh sì, però hai citato un sacco di ruoli, ma lei è bravissima. Sì, sì, sì, davvero, davvero. Ha una carica, soprattutto a livello di energia e a livello di interpretazione. Lei, essendo nascendo in parte come rapper, il rapper è un attore, secondo me. Nella sua stragrande maggioranza dei casi, chi rappa, chi parla durante le sue canzoni deve farlo in modo espressivo, sennò è ridicolo, sembra uno che legge in chiesa, senza togliere niente a quelli che leggono in chiesa, però ci mancherebbe un minimo di espressività, di sentimento, di presenza. Grazie, di spirito buono. Quando si rappa. E Sara ce l'ha in massimo grado, ecco. Pronto? Sì, eccoci. Io sì, mi sento a volte un po' male, mi sento un po' a scatti, quindi ho un po' paura di perdere la comunicazione. No, va benissimo. E che parte faresti, Sara, in questo musical? Tu te la ricordi la storia di questo musical? Dai, sì, più o meno. Ci sono tre o quattro parti femminili che potresti fare, dai, assolutamente. Me la ricordo, però non ricordo adesso non ricordo le parti. C'è una Martha Webster che potrebbe essere molto adatta alla tua grinta e alla tua carica sociale, ecco, decisamente. Chi lo sa? Speriamo che qualcuno metta qualche soldo, che purtroppo con i soldi non si... Cioè, senza i soldi non si va da nessuna parte. Purtroppo è così. No, assolutamente. Sara, raccontaci tu qualcosa, un po' di progetti. No, racconta qualcosa anche a me. Noi ci siamo visti l'ultima volta a maggio scorso, un anno fa. Sì. Giugno addirittura, al tributo a Michael Jackson in Piazza San Babila, al Teatro Nuovo. Che hai fatto di bello in quest'ultimo anno? Raccontami un po'. Ma quest'ultimo anno sto scrivendo i brani del disco nuovo, quindi mi sono fermata per scrivere. Cioè, mi sono fermata. In realtà sto facendo ancora live con Daniele, il quartetto, eccetera. Però principalmente mi sono fermata per scrivere, perché era ora, sono passati 3 anni, quindi è ora di fare qualcosa di nuovo. Sento che è ora di fare qualcosa di nuovo. Vabbè, sì. Pronto? Assolutamente. Poi a scrivere, tra l'altro. Ci senti? Ci senti? Sì, ti sento. No, è partito il collegamento, probabilmente. Ci senti? Sì, eccoti. Però. Adesso ci senti? Sì. Perfetto. Sì, parlare di un po' di problemi di collegamento, poi fossimo lontanissimi, qualche volta Pado. Capita, adesso va bene, adesso si sente meglio. Ok, perfetto. Quindi parlavi comunque... Sara? Sì, appunto, del disco nuovo, speriamo, sempre in collaborazione con One MC, che conosce benissimo anche Paolo, certo. Che ha lavorato anche con lui, e speriamo in bene, insomma, spera di finire presto. Bene. Ma certo. Sempre lunga l'elaborazione. Paolo? Sì, dimmi. Allora, io ti ringrazio innanzitutto della cortesia, della disponibilità, sei stato gentilissimo. Ma figuriamoci, grazie mitico. A voi. È stato fatto tutto di nascosto dalle tue spalle. Infatti non sapevo, ho detto, bella sorpresa. Vabbè, grazie. Ti è piaciuta la sorpresa, tantissimo. Dai, questa è la cosa importante. Almeno è passato meno di un anno, no? Dall'ultima volta che ci siamo messi. Ma io spero anche di vederti di persona. Adesso, non so, bisognerebbe chiedere a Maurizio se ha intenzione di organizzare ancora il tributo, esatto, a Michael. Io ci torno volentieri, sì, e sono sicuro anche tu, sì, per sì, cui magari ci si vede direttamente lì. Va bene, volentieri. Va bene. In bocca al lupo per la tua tournée. Crepi il Spacca. Lupo, grazie mille, Sara. Un bacione enorme. Paolo, ti ringraziamo veramente di cuore. Ma grazie a voi. E come ti ho strappato la promessa fuori diretta, te la strappo in diretta. Ci vieni a trovare qui una sera in studio, in radio, ci canti le tue canzoni. Volentierissimo, veramente, veramente volentieri. Ci sentiamo, ci organizziamo e vi vengo a trovare senz'altro. Grazie. Però poi voglio la telefonata di Sara come ecco, contro sorpresa. Ci sarò. Certo. Va bene. Grazie mille, un bacio a tutti e due. Buon lavoro, buona serata. Sara spacca tutto, sono sicuro che questo nuovo album con cui sta lavorando sarà stupendo. Ciao Paolo, grazie. Fantastico, che bella sorpresa. Hai visto? Contenta? Tanto che non la sentivo. Sì. Persona un artista meraviglioso. Tu non sai le cose di nascosto, io l'ho contattato perché Maurizio, una sera che guardavamo il disco tuo così, ci ha detto, ma sai che ha cantato? È stato Alberto, il nostro direttore artistico. Guarda che ha cantato con Paolo Barilari, che è quello che ha fatto il musical, sì, Brit, che siamo andati a vedere. Sì, esatto. Brit. E allora ha detto, siccome ce l'avevo io nei contatti di Facebook, sì. Ho scritto in privato e lui mi fa, ma certo, ben volentieri. Oh, grande. Facciamo grande. La sorpresa. Preso, così è stato. Bene, grazie. Te lo dico grazie com'è mille. Adesso però ci fai la sorpresa. Sei pronta adesso? Ok, sì, siamo pronti in live. Allora. Daniele deve essere pronto. No, sei pronto? Daniele è sempre pronto. Daniele è nato pronto. Sono pronto. Ok, allora cosa ci fai ascoltare? Allora, vi faccio ascoltare cose in versione acustica, chiaramente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Non mi dire mai e non mi dire ormai, questa volta non ti posso accontentare. Tutto quello che è passato proprio sopra noi non lo scorderai. Credi a quel che vuoi, ma non mi dire mai, non mi dire che non potrà più tornare. Questa storia, sai, vale per me, dai, dimmi che ci penserai. Perché ora fai così? Perché mi lasci qui? Senza avermi spiegato come mai. E tu eri quello che sapeva sciogliere me in un bicchiere e dopo bere. E nelle cose che io non ti ho detto mai, dentro tutto ciò che ho nascosto in me, avrei voluto urlare: ti amo, e ora lo sai. Solo adesso che ho coraggio per ammettere che questa storia facile non è, mi sento dire, è tardi ora, oh, oh, oh, oh. Io credo ancora che tu sei come me, io vivo di emozioni, vivo sensazioni, con le parole io non sono stata brava mai, lo sai, e non c'è nulla che io non farei per te, e quando vuoi io te lo posso dimostrare, guardami, lo sai, non ti mentirei, dimmi che ci penserai. E se c'è già un'altra lei, o è solo colpa mia, perché sei andato via dietro un'altra bugia? E cos'è che non c'è più? Se ora io guardo te, risento un brivido lungo la schiena. E nelle cose che io non ti ho detto mai, dentro tutto ciò che ho nascosto in me, avrei voluto urlare, ti amo. Solo adesso che ho coraggio per ammettere che questa storia facile non è, mi sento dire, è tardi ora. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Mm. Oh, e nelle cose che non ti ho detto, las cosas que yo siento son las cosas que no digo. Ti amo, ahora lo sai, lo sai, sai, sai. Hai sentito? Sì. Paolo ha detto prima, Sara Sol spacca tutto, sta spaccando tutto, il senso positivo del termine. Ah, il senso positivo. Però, senso okay. Positivo del termine, bravissima. Grazie. È stata brava. Proprio perché il pezzo, Daniele, dobbiamo ricordare che cosa, in due versioni del sì, disco. Sì, sì, e la versione acustica. Sì, e la versione dance. Però la versione sì. Acustica è, inizia, secondo me, non so se Daniele è d'accordo, un po' caraibica. Sì, all'inizio, sì, un è po', vero. Con sì, quel arpeggio un po' caraibico. È vero. Poi, poi è esplosa completamente qua. Bella, sì, bella, sì. Molto bene, interessante. Grazie. È arrivato un messaggio. Oh. Dice, vabbè, ti fai i complimenti, Sara. Grazie. Dice che sei bravissima. E poi dice, un saluto a Daniele. Perché lui è stato il mio primo chitarrista, firmato Claudia. Ah, sto con gli altarini adesso. Te la ricordi? Me la ricordo, Claudia. Ciao Claudia, se sei all'ascolto. Sei all'ascolto, Claudia? Sì, sono all'ascolto. È fantastica questa cosa. Caramba, che sorpresa. Ciao Cla. Ma ciao, come stai? Bene, e tu? Benissimo. C'è lì anche Katia? No, no, Katia è a casa che sta suonando. Ah, figurati come se... Ma senti, ma se ti dico il tuo corpo nudo, c'è dentro... L'avevo scritta io, è vero, ancora. Oh, mamma mia, 100 anni fa. Comunque, ragazzi, complimenti. Grazie. Grazie. Spero davvero complimenti. Stai suonando sempre, Cla? Sì, sì, continuo con il progetto Dahlia Nera. Brava, io sono stato uno dei primi chitarristi della Dahlia Nera, è vero? Claudia. L'unico chitarrista maschio in mezzo a 40 donne, quant'era? Eh beh, beato te, no? Beato sì. Fra le donne, è vero. Claudia. Claudia, mi senti? Certo che ti sento. Ecco, la diamo già la notizia che ci vieni a trovare in radio con il tuo... Ma guarda, volentierissimo. Guarda, ho già buttato la parola anche con Paolo, eh. Bellissimo. positivo, allora organizziamola. Organizziamo, adesso ne parlo con Maurizio e poi vediamo di farvi venire qua tutti, veramente una grandissima serata con la vostra musica, insomma. Ok. Ecco. Vi mando un abbraccio e un bacio, posso? Ma certo che sì, ci mancherebbe, lo accetto volentieri. Stavi parlando con Daniele? Claudia? Mando un super bacio a Daniele. Ah, ecco. Grazie tesoro, fammi sapere quando suona in giro, è in zona Milano possibilmente. Va bene, ci senti Claudia, ci sei? Vi sento, vi sento. Ah, perché ci sentiamo a colpi? Probabilmente c'è la linea che c'ha qualche problema. Perché sto guidando, ecco. Metti l'auricolare, disgraziato, mi raccomando. Vedete che sono rock and roll, non posso. Metti l'auricolare a mamma, mi raccomando. Eh. Va bene, va bene. Claudia, ti ringraziamo allora. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, ciao Claudia, un bacione, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao. Ma che bella sta cosa delle tre stellate. Caramba, che sorpresa. La stessa cosa fatta se con Se chiama Claudia, una persona che dice sono la mamma di Sara, non pensate. Evitate, grazie. Evitiamo. Queste le ho chiamate io, persone. Meno male. Ci tenevo a farvi... No, perché non ho detto che si poteva chiamare, almeno lei si toglie dalla testa certo. Qualunque cosa strana. Non è che puoi telefonare alla mia maestra dell'elementare, no. Daniele andava malissimo. Non facciamo tante telefonate in diretta, perché io volevo solo regalarvi due persone care a voi due. Bello. Le ho contattate tramite Facebook. Tutte e due nella stessa identica maniera, e tutte e due disponibilissime, e avete sentito che vi hanno salutato, insomma. Bene, bene. Sara, sei calda? Sì, sì. Allora io ti voglio sentire adesso subito, spacca tutto con... Allora, questo è un brano che nel disco è molto più rappato, ok? Oggi la facciamo però in una versione acustica che ha arrangiato Daniele. Bene. L'ha arrangiata appositamente per i live. Benissimo. Ok, quindi si chiama Donne, se mi permettete una dedica, appunto io la dedico... Io ho delle donne importanti nella mia vita, nel senso delle donne... Si può dire delle donne con le palle? Ho sempre avuto intorno donne con le palle, vabbè ormai l'ho detto. E in primis si è dedicata alla mia mamma. Ah, okay. Okay. Però dovete farmi cambiare la cordatura. Sì, sempre da Dio. Si cambia la cordatura. Allora, quando sei pronto, ce lo dici. Ci facciamo. Certo, vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Vi ricordo i nostri numeri telefonici in studio: è lo 049. 875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms è il 346 23 20 033. Il nostro sito è www.bluradiomento.it e vi ricordo anche le nostre pagine di Facebook, che sono appunto semplicemente la prima Blu Radio Veneto, la seconda per quanto riguarda la parte diciamo rock della nostra musica, e si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. Se sei pronto? Sono pronto. Ok, okay. Che sentiamo dentro, ci stringiamo al petto quei dolori che ci porta il tempo, rinchiudiamo i sogni in movimento dentro ad un cassetto, circondiamo il mondo di colori per sentirci al centro, e sai, non guariamo mai dalle nostre paure, i nostri sbagli, i nostri mostri, finti siamo noi, sai, non cresciamo mai. Respiriamo chilometri di odori stanchi usati, sì, ma non per noi. Questo è per le donne che non mollano, che lottano, che pregano, che sperano. Oh, questo è per le donne che non piangono, che cercano, che trovano, che lasciano. Oh, questo è per le donne che non mollano, che lottano, che pregano, che sperano. Questo è per le donne che non piangono. Degli errori ci corrode dentro, lo sentiamo denso ad ogni notte, ne cerchiamo un senso, rimpiangiamo i sogni in movimento dentro ad un cassetto, e circondiamo il mondo di colori per sentirci al centro, e sai, non guariamo mai dalle nostre paure, i nostri sbagli, i nostri mostri, finti siamo noi, sai, non cresciamo mai. Respiriamo chilometri di odori stanchi e usati, sì, ma non per noi. Questo è per le donne che non mollano, che lottano, che pregano, che sperano. Oh, questo è per le donne che non piangono, che cercano, che trovano, che lasciano. Oh, questo è per le donne che non mollano, che lottano, che pregano, che sperano. Queste per le donne che conosco. Non guariamo mai dalle nostre paure, i nostri sbagli, i nostri mostri finti siamo noi. Sai, non cresciamo mai, respiriamo chilometri di odori stanchi e usati, sì, ma non per noi. Questo è per le donne che non mollano, che lottano, che pregano, che sperano. Oh, questo è per le donne che non piangono, che cercano, che trovano, che lasciano. Oh, questo è per le donne che conosco, questo è per le donne che conosco. Questo è per le donne che conosco, questo è per le donne che conosco. Daniele. Daniele, bravissimo. Sara Sol, bravissima. Grazie. Un po' allo slide, Daniele. Bello, bello. Una grande parte, devo ancora diventare bravo, eh? Ce ne vuole ancora di pane, però. Però un po' di slide fa bene alla salute. Questa è la sua contaminazione, la nostra contaminazione, questa sa di contaminazione. La, mi la mia passione per il blues contagia la voce blues. Di Sara Sol, anche se un po' lontana, lei diceva prima, però sì, sì. Si sta avvicinando. Cosa dici, Daniele? Sì, sì, ce la faremo sicuramente. Esattamente. Nel suo disco sicuramente un dobro lo metteremo, non ti preoccupare. Quel nuovo disco che in preparazione, sì. Qualcosa di quel genere, sì, sì, sicuramente sì. Verrà fuori. Di band, leggo qua che oltre a te Daniele c'è Fabio Gatti e Andrea Cassano, che è un batterista. Sono due batteristi in realtà, perché ne abbiamo due a seconda delle date, delle situazioni. Siamo un trio. Un trio praticamente. Okay. Poi al basso c'è stato, ci sarà magari Alex Perosini, cioè ci avvaliamo di diversi collaboratori, dipende dalla situazione, da cosa dobbiamo andare a fare, perché pubblico, eccetera, allora poi costruiamo. Di base ci siamo sempre io e lui. Daniele di base. Sì, sì, sì. Lui è la partenza, poi tutto il resto si costruisce. Benissimo. Sì, sì, sì. C'è stato ha avuto questo malaugurato incontro che dovevi farci ormai. fortuna. Decisamente. No, assolutamente. Ed è stato un piacere però, perché è nata una bellissima storia musicale. Musicale. Allora, siedo distratta sull'orlo del mondo, questo è il titolo di questa tua penultima fatica, perché l'ultima la stai facendo, sì. Giusto? Quando sì, uscirà fatica. L'ultima? Io spero per la fine, allora sicuramente per settembre, fine estate settembre c'è un singolo che è un featuring con Mr. Galan, che è un cantante reggae. Quindi il primo singolo nascerà arriverà per fine estate, quando gireremo anche il video. Quindi uno è già uscito, perché si chiama Ancora, ed è un brano che ho fatto con i Contrasto, che sono un duo milanese, sì. Due MC, e che non ho potuto portare oggi appunto con le basi eccetera, un po' un caos, e quindi raccoglierà un po' tutte queste cose. In realtà l'album non sarà uno ma saranno due, perché ci saranno dei brani fatti con gli strumenti dal vivo. Ah, ho capito. E dei brani che riprenderanno di nuovo la situazione DJ, MC, tutto quanto. Perché col tempo mi sono accorta che solo quello non mi basta più. Quindi praticamente ci sono solo dei campioni, pezzi, solo cose non voglio. Il campionamento sì, però sì, fino a un certo punto. Sì, allora. Sì, fino a un certo punto. Qualche brano così, quindi sarà molto più dance, molto più elettronico. Però anche brani che danno respiro a musicisti come Daniele. Daniele ha messo le mani in questo disco? Sì, no? sì, metterà le mani su. Allora, io sto facendo ancora le canzoni, poi sicuramente lui suonerà la parte della chitarra e la riscriverà. Okay. Scriverà la sua parte di chitarra, sì, sì, quello sì. I pezzi li scrivi tutti te o no? Con OneMC, che è il mio produttore. Sì, mi segue dal 98 ormai, quindi sono un po' di anni, sì, mi fa crescere. E come crei un pezzo? A me voglio sapere questo. Come crei un pezzo? E al pianoforte, con gli accordi, poi? Sì, sì, accordi, voce, poi scrivo le parole. Io ho un piccolo studio, quindi butto giù l'idea, certo. Poi la mando a lui, oppure il contrario, lui scrive parole, lui non è italiano, quindi il testo di solito lo finisco, sì. Io, anche quando fa lui la melodia. Ho capito. Quasi sempre, quindi. E perché dice giustamente, la tua lingua poi devi dirlo tu, scrivilo tu, che sicuramente viene meglio. E quindi in questo modo qui, chitarra o tastiera, a seconda dei luoghi. Momenti, sì. Dei luoghi. Sì, certo. Sì, sì. Ricordiamo che questo tuo produttore è di Miami, giusto? No. Lui no. È qui a Milano. Ah, qui a Milano. Sì, sì, sì, è qui a Milano. Ha contatti con questa sempre tramite MySpace, anche lui. MySpace è un grande, diciamo, è un po' di tutto. Cioè, ci sono cose buone, cose bisogna sempre scegliere. Però certo. Io ho trovato questi ragazzi di Miami che sono interessati, hanno sentito questo disco e gli piaceva come cantava, gli piaceva il fatto di produrre un artista italiano, non l'ha mai fatto. e quindi mi stanno inserendo nei loro artisti. L'etichetta per la Miami New Compass. New Compass, sì. Abbiamo già fatto ancora con loro, sì, anche certo. Il prossimo brano sarà sempre loro. E loro hanno, vabbè, tra i vari DJ che lavorano anche con Pitbull, che sì. È famosissimo, ok? Certo. Quindi questo mondo musicale, perciò una parte sarà perché mi piace proprio e l'altra però sarà più live, più... Quindi due facce della stessa medaglia musicale. Sì. Tanto, secondo me non... la cosa che dicono devi tenere per forza lo stesso sound è un po' una stupidata, nel senso che una persona può essere verde, gialla, rossa insieme. Certo. Non per forza, tanto poi è la voce che fa da collante secondo me a tutto, quindi non c'è bisogno di fare il singolo e poi 10 brani simili. Ho capito. Ecco, questo non è la mia mentalità. Non l'abbiamo ancora detto, se qualcuno ti vuole contattare, i tuoi siti. Ok, allora, www.myspace.com/sarasol e poi su tutti i social network, quindi Twitter, quindi Facebook, tutti quanti. Non ho ancora un sito internet, uso MySpace, finora è andata bene, quindi continuo così. Sì, certo. Continuo così. E se qualcuno vuole acquistare il tuo disco? E allora, adesso prima c'era in qualche negozio, online su iTunes, quindi okay. Si può... Prima c'era qualche negozio di Monza, poi giustamente sono passati 2 anni, insomma, certo. L'abbiamo... Però se mi scrivono glielo mando volentieri. Quindi basta un'email. Sì, basta un'email. Sì, un'email con l'indirizzo glielo mando volentieri. Prossimi concerti? Allora, adesso abbiamo nel mese di... noi facendo scuola, comunque abbiamo il fine anno per i corsi, quindi un po' tragica. Però abbiamo il 9 di giugno in Piazza Merate, quindi chi vuole venire, magari c'è qualcuno della zona che ci ascolta. E poi, vabbè, faremo un po' di date in giugno, sempre in un locale che si chiama Glam, sempre lì a Merate. Uh-huh. E abbiamo... Vabbè, io il 21 sarò in teatro ad Agrate, sia il 21 che il 27, ospite di una scuola di danza, quindi canterò i miei pezzi, però sarò ospite 21 e 27 maggio. Quindi un po' di date le fai con Daniele solamente? Sì. E con lui e poi le altre, sì, con le basi, con DJ. Il discorso di due... percussionisti, come va? Interessante. No, in realtà sono tutti e due molto impegnati, quindi quando non c'è uno, però suonano in modo completamente diverso, quindi poi io e lui ci adattiamo a chi viene per quella data, li adoro tutti e due, quindi non riesco a scegliere. Però anche questa cosa è molto interessante perché ti fa cambiare un po' il sound, secondo arriva uno che ha un certo modo di suonare, ti fa cambiare, quindi comunque è sempre non tanto una sfida, ma comunque è sempre un bel viaggio. Secondo me i brani, ogni volta che un musicista li prende in mano è come se li riscrive in un certo modo, ok? Li riscrive, quindi ogni volta aggiungiamo qualcosa ai miei brani, questo mi piace un sacco. Quindi dal vivo chiaramente li cambi quasi totalmente? Sì, quasi totalmente. Dipendente da quelli che non si possono cambiare? Sì, questi li cambiamo, li facciamo quasi tutti come stiamo facendo qui da voi oggi praticamente, sì. Perfetto. Adesso ne fai subito un altro. Allora. Ok, allora, visto che voi siete andati a ripescare La Notte, che è un brano di Adamo, che mi piace tantissimo, e mi piaceva tantissimo anche la versione spagnola, soltanto meglio che canto in italiano, cioè almeno adesso non ho il testo, quindi evitiamo. L'ho incisa anche in spagnolo. Tu hai cantato anche? Sì, l'ho fatta sia in italiano che in spagnolo, però adesso non mi avete colto impreparata, quindi no, facciamo il brano in italiano. E niente, le chitarre in quel brano le ha suonate davvero Daniele, quindi dovrebbe esserti è perfetto. Familiare, esatto. E niente, quindi l'abbiamo rifatta perché ci piaceva l'idea di fare una cover italiana. Sì, ricordiamo che Adamo era famosissimo negli anni 60, Inshallah è un famoso pezzo. Tantissimo. Ha avuto grandissimo successo. Sì, poi una voce stupenda, una voce stupenda. Bellissima, sì. Proprio calda, mi piaceva questa cosa. Io ricordo Adamo con La Fida e Una Lacrima al Vento. È vero? Anche quello, un altro pezzo, un'altra hit degli anni 60. Sì. Che poi in Belgio era strafamoso. Sì, famosissimo. Io ho avuto modo di toccare con mano quella realtà perché sono stato in Belgio lì. Beh, ma anche qui, perché io non pensavo, dicevo, magari quelli della mia età non sanno quando ho fatto il brano, invece poi o le mamme o che la conoscevano tutti, ho detto meno male, l'ho scelto bene. Allora si chiama? La Notte. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. E quando infine spunta l'alba, c'è solo il vuoto intorno a me. La notte tu mi appare immenso, invano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. la notte tu mi fai impazzire. La notte mi fai impazzire. Mi fai impazzire. E la tua voce fende il buio. Dove cercarti non lo so. Felice tu ritrovi l'altra, quell'altra che ti fa impazzire. La notte mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Con il tocco finale. Brava, brava Sara. Grazie. Penso, come abbiamo detto prima di partire di quel programma, parlavamo io e Sara, penso difficile che sì. Lei l'ha ripreso in modo decisamente bello, interessante. Grazie. Non è semplice. No, non è mai semplice fare una cover. Esattamente, perché... fare una cover, respirare in quel maniera sì, là. Sì, e sì. Poi chiaramente si respira personalmente, quindi sì. Si dà una versione personale del diversa. Pezzo, però è difficile. Sì, è molto difficile, anche perché il testo è scritto per un uomo. Esattamente. Esattamente. Però ho voluto proprio non cercare una donna, altrimenti avrebbero fatto poi paragoni di voce, queste cose che non mi piacciono molto, quindi ho detto almeno un pezzo maschile non fanno paragoni di voce. Poi è chiaro, ognuno dà la sua versione, per quel che posso fare, insomma, ho fatto quello che potevo. Vabbè, hai fatto il meglio che potevo. Secondo me hai fatto molto bene. Poi sarebbe stato bello magari sentirti anche in spagnolo. Ecco. Va bene, non me la ricordo, non me la ricordo più perché non importa. Poi non la, ecco, questa live non la facciamo perché abbiamo un pubblico, un target un po' diverso, quindi non ce la chiedono di solito. La mia era solo e semplice curiosità. Hai ragione. Allora, la gente che non può permetterselo non dovrebbe sognare. Poi risponde la Sara: tutti hanno il permesso e il diritto di sognare. Assolutamente. Quello che mi hanno sempre detto da quando sono piccola, insomma, che non poteva essere il mio mestiere, perché non avevo i soldi per farlo. Non puoi farla cantante se non hai dietro. Forse hanno ragione loro, io però continuo a pensare che sia la mia strada, quindi vado avanti. Certo. Cioè non si può pensare di sognare a comando. Cioè una cosa che viene da dentro, non è una cosa che uno decide, no? Giusto. Quindi, come dire, ho comprato questo sogno, adesso non ho più lo scontrino, non posso cambiarlo. Mi rimane dentro così, non posso farci niente. Ma non è un sogno, è una realtà questa qua. Ma è una realtà, insomma, sì. Si fa beh, fatica, sì, ma si va avanti. Si fa fatica. Sì. Quanta fatica si fa, Sara? Ma, tanta. Per le bollette tanta, però per i sentimenti poca. Per i sentimenti poca, so per che le bollette tanta. Abbiamo sì. Una fatica sì, comune. Sì, sì, ma tutti, anche, esatto, qualunque persona penso che al giorno gli fa un po' fatica, quindi va bene. Ma la domanda era specifica, è difficile fare il musicista indipendente praticamente come fai te adesso, in questo momento, sì, in Italia? È difficile perché c'è un po' troppo tutto, no? Ci sono tantissime band, c'è tantissima offerta, soprattutto da internet. Certo. Quindi io se fossi un produttore non saprei proprio dove girarmi, da tutte le parti arrivano CD. Quindi questa è un po' la cosa. Poi ci sono i programmi televisivi che sfasano, esatto, positivamente, sì, o negativamente? Secondo me negativamente alcune cose, perché ci sono degli artisti reali poi lì, però il più è costruito. Cioè, sì. È gente che non ha magari mai fatto neanche una serata, che non sa cosa vuol dire. E spesso e volentieri sono degli interpreti. Sono sempre degli interpreti, sono quasi sempre degli esatto, interpreti. Non scrivono i pezzi loro. Sì, un po'. Allora, questa cosa va bene perché comunque bisogna far lavorare anche gli autori, certo, che altrimenti non hanno proprio posto. Possibilità. Okay. Esatto. E dall'altra parte, però, appunto, cantautori ce ne sono pochi. Sì, perché pochi. Il discorso è questo. Poi la gente si dimentica facilmente. Sì. Se uno è interprete, il discorso è diverso. Molto diverso. Ma se uno non è in più interprete, se non trova gli autori giusti, come fa? No, infatti, sparisce? Sì, assolutamente. Poi, oppure si ritrova a cantare cover tutta la vita, è vero, dei più famosi italiani, insomma, questa è la realtà. Quindi un po' difficile è, un po' difficile, però non per questo uno deve smettere di provarci. Deve provare, deve assolutamente provare. Quindi con la tenacia spesso e volentieri si riesce a superare certe cose. Dai. Cosa dici, Daniele? Decisamente, decisamente. Io vado avanti sempre con la mia professione. Anche questo è un sogno che c'è fin da piccolo, lo costruisci poco a poco come fa Sara, lo costruisci, ci fatichi dentro, ci lasci il sangue, il sudore, le lacrime, anche le risate, la gioia, però poi vai avanti. Non ti ferma, su questo non ti ferma nessuno, neanche le bollette, credo. Neanche le bollette. Osservatorio vuoto. Questo è vero. È la cosa più bella che una persona possa, cioè seguire i sogni è la cosa più bella che possiamo fare, altrimenti la vita sarebbe, cioè le persone che non sognano secondo me non vivono veramente. Ma quanto è cosa bella quando tu sai che hai un disco là in vendita e là presente, l'hai fatto te. Sì, poi la fatica che appunto ci vuole da soli. Da soli. Io in realtà ho incontrato One MC che mi ha dato una mano veramente tantissimo. Però, cioè mi ha fatto credere che potevo farlo veramente. Però negli autori, io parlo di questo disco nuovo, non lo so, ma negli autori c'è il tuo nome. Sì, sì. E quello è una cosa molto importante, secondo me, fondamentale. Fondamentale. Un vanto per uno. Sì, è una cosa, è un traguardo. È una delle cose della vita che secondo me è. Anzi, io dico sempre anche ai miei allievi così, che tutte le persone dovrebbero scrivere qualcosa, una poesia, una canzone, è una cosa che proprio ti cambia. Certo, sono cioè, buttare giù due righe fatte da te, questa è la cosa che... È un po' come avere un figlio, giusto? Sì, è come quelli che parlano su Facebook solo tramite i link, cioè non dicono delle cose dette da loro, continuano a mettere... quando le persone, e c'è il link, quando le, non so, magari sta male, ma al posto di scrivere quello che sentono, Facebook serve anche a questo, secondo me, mettono il link. E allora dici, e che copiato da altri 140.000, insomma, un po' sì, troppo facile così. Io non faccio parte di questa categoria. No, tu metti in buona musica, che ascoltiamo volentieri. Sì, ne metto tantissima, se devo essere sincero. Meglio. Io ne approfitto per dirti che sei vista da molte persone, che c'è un riscontro più numerico, e cioè, quindi ne vogliamo salutare chiaramente gli ascoltatori, che penso siano tantissimi questa sera. Veramente siamo onorati di averti qui e ci dà gioia sapere che sei molto seguita in questo momento. Non male, grazie. Salutiamo anche il nostro fotografo occasionale, che è Roberto. Stasera. Ciao Roberto. Roberto. Ha sostituito Chiara, che vabbè, ci darà a trovare un altro momento. Cosa ci fai adesso? Dai, che facciamo ascoltare qualcosa. Un altro pezzo live, si chiama Locomotore. Sì. Allora, questa canzone parla praticamente del... mi serviva qualcosa per... come dire, mi serviva un veicolo che potesse portare in giro l'emozione. Allora ho pensato a un treno. Un treno. Questa era un po' l'idea. Ok. Oggi mi arrendo a questa realtà. Non ho più spazio, tutto lo strazio. Per chi è come me non paga papà. Sento qualcuno là in mezzo alla folla. Grida politica, è soltanto un birla. Non voglio essere una che parla, sono una sveglia. Voglio avere più ritegno per chi vive nel mio regno, per chi non mi dà sostegno, per chi non sembra degno. Il diverso appare strano e forse un po' spavente umano, ma se noi l'allontaniamo mai più lo capiremo. Locomotore di poesia, la mia follia, locomotore di energia, la malinconia, locomotore di simpatia, stare in tua compagnia, locomotore, portami via dalla monotonia. Tzu-tzu. Capo più là, ma non c'è ancora ciò che mi va. Non c'è un palazzo e non c'è uno spazio in cui trovi pace e la creatività. Sono rinchiuso ormai dentro una bolla. So che se scoppio divento una biglia. Rotolo, rotolo come una palla, sono una sveglia. Io vorrei avere più ritegno per chi vive nel mio regno, per chi non mi dà sostegno, per chi non sembra degno. Il diverso appare strano, forse un po' spavente umano, ma se noi l'allontaniamo mai più lo capiremo. Locomotore di poesia, la mia follia, locomotore di energia, la mia. porta via il dolore. Treno, bravissima, bravissimi tutti e due. Con i ciuciuffa direi. Com'era? Me lo rifai? Ciu-ciu. Bellissimo. Bravissimo. Ma sai anche il soprano, mezzo soprano? Ho studiato lirica io. Ah, ecco, tra le tante cose. Ho studiato lirica, sì, sei anni. Sei cos'è anni che non hai fatto? Dici no, cosa... no, tantissime. Aveva ragione Paolo quando diceva che sai fare tutto. No, no, no, cavoli. E questa è la prima volta che faccio un live in una radio, quindi è fichissimo. Onorati. Onoratissimo. Un po' così. Ma dobbiamo sottolineare una cosa di questo pezzo. Tanto è una voce incredibile. Grazie. E poi Paolo, Daniele praticamente... con la chitarra fa tutto, fa tutto e fa il blues con il treno. Il treno e il blues hanno un connubio fondamentale. Il blues e il treno è tutto praticamente. Eh sì, nel blues c'è sempre il riferimento al lavoro sulla ferrovia o al treno che parte o che arriva. C'è l'Orange Blossom Special anche nel country. E vabbè, da qualche parte l'hai fatto benissimo. E poi hai dato proprio là sarà solo che poi esplosa. No, ma lui, io dico sempre quando siamo nei live anche da soli, che fa per tutta la band. Eh sì, cioè, non c'è bisogno di nient'altro, passa un piattino e abbiamo finito. Ci siamo. In questo momento era una band praticamente. Sì, sì, sì. Grazie. Cioè riarrangia i brani, li ascolta e li fa proprio. Li fa suoi. Bravissimo, bravissimo. Bellissimo. Un pezzo che proprio è stato completamente. Cambiato, sì, totalmente sì. Cambiato dal disco sì. Com'era e ha segnato un'altra via. Qualcuno ci ha detto che preferisce la versione live, poi una volta sentito, quando hanno sentito il disco hanno detto no, preferiamo la versione live. E questo in molti, devo dire la verità. Quindi, è una cosa positiva. Sì, sì, sì, è positivo. Secondo me un artista in realtà deve rendere di più in live che non su un disco magnetico, certo. Insomma, deve essere c'è il calore. È il discorso che avevi fatto prima, c'è il calore. Il live si trasforma. Sì, sì, sì, c'è il calore della persona, della voce, della chitarra, certo. Quindi no, assolutamente. Sì. Benissimo. Cosa è arrivato il nostro direttore artistico che salutiamo. Il nostro direttore artistico. Buonasera. Alberto Prisco. Ciao Alberto. Ok. Che dopo di noi sarà lui alle 22:30 con la sua musica, eccolo là. Ciao. Con la sua musica rock e la sua classifica che è assolutamente da non perdere. Quindi vi invito gli ascoltatori che sono in questo momento sintonizzati su questa vostra emittente Blu Radio Veneto, che alle 22:30 per chi ama il rock, soprattutto tutte le novità, ecco, possibili, lui le cerca, le pesca e poi le ripropone, e anche la classifica. Questa è la trasmissione con Agostino e con Maurizio, che si chiama Blu Radio Sera. Abbiamo in studio Sara Sol, che sta presentando il suo, diciamo, vecchio disco, ma tra poco ci presenterà anche il disco nuovo. Sì, c'è un brano che voglio farvi sentire, che è un'anteprima. Sì, ci regali un'anteprima. Questa exclusiva. Sì, no, a dire la verità non l'abbiamo neanche ancora incisa, quindi è proprio solo, c'è solo la melodia, poi lui l'ha riarrangiata, quindi ce l'abbiamo così. Questo brano è un brano che voglio dedicare appunto al mio compagno e ai miei familiari per una vicenda successa qualche anno fa. E soprattutto si chiama Uccidimi il brano, e non è da prendere alla lettera, e non si sa mai, meglio dirlo. E appunto una vicenda che è successa soprattutto a mio fratello Andrea, che si sposa a settembre, quindi voglio riuscire a registrarla prima della data del matrimonio. Non so se sarà fattibile, però voglio regalargliela, ecco. Ok, quindi la facciamo ascoltare in anteprima. Okay. Allora questa. Uccidimi, sì, in anteprima. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Stai pensando al tempo che non hai, a quello che hai perduto e che non vuoi più passare adesso insieme a lei. Quanto tempo ancora passerà e quanto freddo ancora dentro, non lo sai più cosa inventerai. E vuoi un posto per te, per viverti di più. E vuoi un posto perché qui non respiri più. E dimenticherai i silenzi, dimenticherai quegli occhi chiusi verso il mondo che non guarda noi. E ti regalerai sorrisi, dimenticherai quegli occhi chiusi verso il mondo che non guarda noi. Cosa lasci indietro se ora vai e cosa perdi se non torni, non lo sai più cosa inventerai. Tirerai su altri muri duri, costruirai strade migliori e verranno presto tempi buoni. E vuoi un posto per te, per viverti di più. E vuoi un posto perché qui non respiri più. E dimenticherai i silenzi, dimenticherai quegli occhi chiusi verso il mondo che non guarda noi. E ti regalerai sorrisi, dimenticherai quegli occhi chiusi verso il mondo che non guarda noi. E dimenticherai quegli occhi chiusi verso il mondo che non guarda noi. E dimenticherai quegli occhi chiusi verso il mondo che non guarda noi, che non guarda noi. Io l'ho reputo sì, bravissima. Posso dire una cosa? Hai perforato le cuffie. Scusate. No, no, ma in senso positivo. Anche i miei vicini lo dicono che ha perforato le cuffie. Usano un altro termine. Ma... senso positivo. Questo è il nuovo corso tuo, Sara Sorsa. Come? Il nuovo corso tuo, questo pezzo qua. Sì, sì. Molta grinta, molta pathos, molta partecipazione. Questa farà parte del disco, chiaramente, quello più acustico. Più acustico, la parte... Però partecipazione, sì, forza. Sì, sì, questo è un brano a cui tengo molto. In realtà il testo non è mai... cioè cambia ogni settimana, perché non ho ancora... Però il titolo rimane. Più o meno come le scalette dei live, no? Più o meno come le scalette dei live. Lui mi sgrida sempre, perché facciamo una... Oggi sto rispettando la scaletta, di solito do la scaletta, poi al momento, in base alla gente... Cambi. Sì, ma vado a prendere anche cose che lui non si ricorda più. Quindi rischiamo anche di fare delle figure. Anche un gioco, il live diventa un gioco a premio. Sì, esatto. Te la ricordi. Vediamo se te la ricordi. Poi non sente, perché io parlo piano e dico a tutti che lui è sordo, poverino. Tutti sanno che Daniele ha una certa età. Il pagliaccio sordo della band. Poverino. Comunque ci hai regalato una bella sorpresa, una bella chicca. Grazie. No, grazie a voi che mi avete ascoltato, ed è importantissimo questa cosa, che avete avuto orecchie per ascoltare. Vabbè, certo. Altrimenti non ti avrei invitato a venire qua. Grazie mille. Allora, questo disco che sta per uscire, comunque, quante canzoni? È una bella domanda. Non lo sai? No. Non hai idea? Una decina, più o meno. E secondo me, magari qualcuna di più, perché saranno divise magari 5-5 o 6. Percorri 5, sì, 5 in un modo e 5 in un altro. Percorri varie strade? O? Sì, percorrerà varie strade, perché comunque crescendo si imparano altre cose, appunto. Quindi ci sono delle cose che non posso più lasciare indietro. Certo. Devo portarle con me, perciò... anche perché poi devo passare a qualcosa di successivo, spero. Certo. Bisogna imparare a fare altre cose. Questo sarebbe il tuo secondo disco, no? Sì, sì, il secondo. Dicono gli esperti, chi se ne intende, beh, forse può confermarlo anche Daniele, che il terzo disco è il disco della maturità assoluta. Oddio, se vado di questo passo qua lo faccio a 50 anni. Però è la maturità anche fisica, sarà dopo, però... Parlo di maturità musicale, dicono. No, ma sicuramente, secondo me, cioè, certe cose di questo disco a me già suonano strane, sei insomma. Rispetto al primo mi disco. Mi sembra già un po' fuori, però è normale. Penso, ma già appena, secondo me, appena lo chiudi. Perché nel frattempo tu le hai cantate 100 volte, le hai scritte, quindi già appena te lo chiudi pensi... avrei potuto fare diversamente questo brano, posso rifare una. Dal vivo le fai già quelle nuove oppure? No, solo questa. Ah, solo questa. Solo questa. Okay. E poi la canzone con il contrasto ancora. Ah, ok. Sì, okay. Quella c'è un videoclip anche su YouTube, basta digitare Sara Sawyer che escono i vari video. Live. Si chiama ancora, sì, giusto? Sì, ancora il brano, ancora. Sì, l'ho visto, l'ho sentito. E ormai ti ho conosciuto un po', no? Ecco. Quindi dovevo quantomeno documentarmi su quello che fai. Sì. Sei stati molto bravi, hai trovato delle cose che non vi avevo detto, quindi molto bene. Tipo Paolo, perché c'era nel disco, ma poi non l'avevo specificato nella bio, invece bravi. Si è accorto Alberto. Dai, il nostro direttore artistico ha e captato. Poi, e poi io l'ho contattato. E poi è particolarissimo, quindi... La parte che fa nella musical la fa una parte molto difficile, molto particolare, è molto bravo. Comunque hanno una grande considerazione di te anche dal punto di vista vocale. Oh, grazie. Cioè quelli che ho sentito così mi dicevano meno che male. Veramente una gran bella voce. Meno male. Poi si insegni canto, voglio dire. E no, non dire così che non è vera questa cosa. Come non è vera? Sfatiamo questa cosa. Non c'entra come uno canta. È come dire, è vero che sono due cose pensavo divise che non no, non c'entra, non è per forza legata alla cosa, quindi... ho fatto una battuta, no, perché lo dicono tutti, sennò non è proprio così uguale, cioè non è uguale insegnare e cantare, sono cose molto diverse. Abbiamo 12 minuti, sì, cosa abbiamo adesso in scaletta? Allora io direi di fare una cosa genere, se siete d'accordo, ci ascoltiamo subito immediatamente una canzone in acustico, sì. Torniamo in studio, ci salutiamo, ci diamo e poi ci salutate con una canzone. Va bene. Vi facciamo sentire una canzone di Harlem, Somewhere Over the Rainbow. L'abbiamo rivisitata, la facciamo nei live, ci piace un sacco, quindi... Ok. somewhere over the rainbow, blue must fly. The dreams will come to these ones in a Radio Sera. Blu Radio Sera. È un classico, ma l'avete fatto benissimo, il classico dei classici. Bravissimi. Mancava poco che spegnessimo la luce, sì, e creassimo. Oh, che bello. L'abbiamo già fatto, sai, un'altra volta. Sì, l'abbiamo già fatto. Per l'atmosfera. Questo brano io lo devo dedicare alla mia amica Milena, che è lì tra quelli che sta ascoltando. Sì, è lì da 10 anni che segue tutti i live e tutte le cose. Quindi merita un applauso lei, veramente. Ciao Milena. Non ce l'ho in linea, eh. No, non lo so, però. Okay. Sei una bellissima versione, poi colorata in maniera incredibile da Daniele, che ha proprio pennellato. Sì, sì, sì. Grazie. I momenti di un grande pezzo, che è un pezzo conosciutissimo, in tantissime versioni. No. E questa è la tua versione. Sì, questa è la nostra versione. Nostra. La vostra versione, che abbiamo riarrangiato insieme. Quindi. Bene. Abbiamo finito. C'è poco da fare. Hai visto che è passato velocissimo? Sì, cavoli, anzi, sì. Troppo veloce. Se all'iniziare, no. Vabbè, la riascolterò tante volte per vedere cosa ho detto. Va bene. Casomai ci vieni a trovare per il disco nuovo. Sì, volentieri, grazie. Grazie già, mille. Strappate la promessa? Sì, sì, sì. Se la vieni a presentare in anteprima? Sì, va bene, perché no? Grazie, ecco, grazie mille. Abbiamo un'esclusiva, hai visto? Giusto, noi siamo molto felici delle esclusive, poi fatte in questa maniera sono doppiamente esclusive. Sì, sì, sì, è quasi esclusiva anche per me, quindi ogni volta, ogni volta è diverso. Sara, facciamo un riassunto delle tue cose, dove ti possono trovare, eccetera, disco e via discorrendo. Ok, allora www.myspace.com/sarasol, scritto come la nota musicale, tutto attaccato, quindi non c'è soul, no, ok? Poi Facebook e Twitter, sempre come Sara Sol. E poi vabbè, se volete cercarmi come scuola, Violet Music, scritto Violet Music, abbiamo il sito, quindi ci trovate anche lì, volendo. E c'è anche Daniele, quindi ci trovate anche lì. Bene, okay. Il disco? Allora, il disco è in vendita su iTunes, di Bassa Digitale, Siedo Distratta, Sara Sol, senza magari Siedo Distratta sull'Orlo del Mondo, e comunque esce, ok? Quindi lo trovate lì. Oppure scrivetemi una mail su MySpace o su Facebook e ve lo mando volentieri. Certo. Prossimi concerti? Allora, prossimi concerti, fine maggio, 21-27, Teatro di Agrate, che si chiama Teatro Duse. E poi nel mese di giugno, la prima data, perché poi le altre non le ricordo tutte, il 9 a Merate, in piazza. Ok. Okay. E se qualcuno ti volesse invitare a cena, il tuo numero di cellulare? No. Posso dare quello mio moroso? Paga lui, allora. Paga lui, va bene. Daniele, tu invece, prossimi concerti, eccetera, eccetera? Ma prossimo concerto ce l'ho domani con il duo So Blu in un locale di Bareggio vicino Milano, e poi vabbè, prossime date con Sara Sol, poi vabbè, ci saranno altre cose, poi vabbè, sto lavorando al mio album. Cosa è Bolle in pentola per te? Bolle in pentola è il mio album che sto cominciando a registrare, sto componendo, insomma. Prima parlavo con Agostino del concept, è interessante perché vabbè, io sono un cosiddetto turnista, nel senso che sono uno che noleggia la sua chitarra a chi la chiede, quindi l'anticipazione, il concetto che il disco si intitolerà Guitar for Rent, cioè chitarra noleggio, e il concetto è che ci saranno dei brani che vengono da quello che è la mia esperienza tra virgolette lavorativa, ma per me non è solo un lavoro, è la passione di tutta la vita. E nel frattempo ci saranno anche gli intermezzi della chitarra, che quando non viene noleggiata sogna e suona per conto suo. e saranno i miei brani acustici, diciamo. Questo l'esclusiva di Daniele ce l'abbiamo già. Il concetto del lavoro che arriverà, insomma, poi. Certo. L'esclusiva ce l'abbiamo già. Chiaro, Daniele, sì, assolutamente. Questo sarà il primo posto dove arriverà quell'album. Bene, sicuramente, nelle vostre mani. Bene, allora Maurizio, noi ci salutiamo adesso perché è arrivato il momento di lasciare lo spazio ad Alberto. E Sara, io ti ringrazio di aver aderito al mio invito. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori di Blu Radio Veneto, grazie mille. Speriamo di riaverti qui perché hai incantato tutti con la tua voce. Grazie, troppo buono. Daniele lo sa già da una vita che lui è sempre ben accetto quando ci vede. Grazie ragazzi, è un piacere immenso. E poi facciamo una confidenza, Maurizio. Daniele viene per un altro motivo. È vero. Gli piace da matti lo spritz. Esatto. Ah, è vero. Sì, è per quello. Sara, cosa ci canti adesso? Allora, adesso vi faccio sentire sempre in acustico con la collaborazione di Daniele, Siedo distratta sull'orlo del mondo, che è il brano che dà il titolo all'album. Poi andate a ascoltare, anche solo per curiosità, su MySpace le versioni elettroniche dei brani, così poi mi scrivete magari. E grazie per averci invitato, davvero. Ok, grazie a te. Ciao a tutti, appuntamento a appuntamento non so quando ci risentiremo. Ciao, buon ascolto con l'ultima canzone di Sara Sol. Pensierosa sul futuro, io cammino lente all'incontrario. Ripenso al mio tempo che sembra distante, invece proprio qua. Sei nell'ombra sul divano, stai dormendo, sento il tuo respiro. Tu parli nel sonno, bisbigli un bel nome, ma non è il mio. E dimmi cosa c'è, forse te lo senti, che io sto lasciando questa tua realtà. Niente dal tuo mondo può più raggiungermi. Non sto giocando, cresco, non sto scappando, esco. E dietro ad ogni tuo sospiro, dentro questo sogno, io raccolgo la mia anima, la porto via con me. Sento ancora il tuo veleno che mi cade addosso. Resterò nella mia isola, lontano ormai da te. Cerco in cielo un aeroplano, resto appesa ad un ricordo strano. Mi siedo distratta sull'orlo del mondo che dondola qua e là. Voglio una vita un po' al sole, voglio sentire la speranza e sale, che tu non hai più, che tu non mi hai dato, che tu non sei. E dimmi se ci credi, dimmi se mi vedi. Io sto usando la mia personalità. Niente dal tuo mondo può più raggiungermi. Non sto giocando, cresco. E dietro ad ogni tuo sospiro, dentro questo sogno, io raccolgo la mia anima, la porto via con me. Sento ancora il tuo veleno che mi cade addosso. Resterò nella mia isola, lontano ormai da te. Sospiro, dietro questo sogno, io raccolgo la mia anima, la porto via con me. Oh, la porto via con me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.